galleggiano schermati dal rumore. Adesso fai silenzio per favore. Vedo la mia bimba che mi parla e non la sento. La sua voce si disperde mentre fischia il vento. So che se mi fermo tu te la prenderai. Il rumore mi disturba ma non so se capirai. Certo mi dirai che non sono abbastanza maturo, ma questi sono giorni in cui per niente mi sento sicuro. Dalle ansie che di solito tengo sotto tiro, tanto forte da pannoso si è fatto il mio respiro. E adesso non ridere, non prendermi in giro. Non chiedermi come posso uscirne, non chiedermi come posso uscirne. Non so che devo chiedere amore, chi può darmene. E non chiedermi come posso uscirne. Non so che devo chiedere amore, chi può darmene. Non so che devo, non so che devo. E non chiedermi come sia possibile tenersi a galla in giorni in cui non esiste un limite alla confusione che ti sposta ogni tassello su cui sta appoggiato in equilibrio il tuo castello. Pensa che bello, un'armatura per l'esterno, niente puoi contro il tuo cervello. E adesso so bene di questo e di quello, e ci convivo e sopravvivo finché non rigetto tutto e scrivo. Scrivo di questi giorni di cui non mi spiego, scrivo dei tuoi baci per cui ogni notte prego. Di tutto il resto me ne frego, ma sono giorni che non ricordo con chiarezza, ma sono la misura di quanto sia importante ogni tua carezza. Ed ogni tua carezza sai mi può salvare, e so che tutto questo non mi può far male. Non mi può fermare, solo tu mi sai scaldare. Chiedermi come posso uscirne, non chiedermi come posso uscirne. Non so che devo chiedere amore, chi può darmene. E non chiedermi come posso uscirne. Non so che devo chiedere amore, chi può darmene. A volte si nasconde, ma le tue mani sono sempre pronte in giorni in cui spesso scotta la mia fronte. Ora che posso contare su di te, sembra che ogni cosa non ci sia, anzi no, non c'è. E la mia mente si ribella e tutto quanto passa, tutto si cancella. Non chiedermi come posso uscirne, non chiedermi come posso uscirne. Non so che devo chiedere amore, chi